Il gastronauta, l'Italia del cibo. Buona domenica cari gastronauti, oggi parleremo di MasterChef ma in maniera molto particolare. Che fine hanno fatto vincitori e vinti di questa trasmissione? Io credo che questa domanda in molti se lo chiedono, non solo quelli che guardano con continuità questa trasmissione, questa particolare trasmissione che ha avuto tanto successo, ma anche magari chi ha visto una volta solo in diretta appunto queste gare tra coloro che vogliono diventare chef o vorrebbero diventare chef o semplicemente personaggi famosi. Io credo che questa seconda ipotesi sia la più probabile, cioè di diventare personaggi pubblici, poi magari fare libri, aprire ristoranti, andare in trasmissioni televisive. Ebbene, ma oggi lo scopriremo perché molti di questi partecipanti che sono balzati alla ribalta sono con noi. Allora io do un buongiorno a Maurizio Rosazza Prin e Andrea Marconetti che ho qui in trasmissione buongiorno Davide, ma soprattutto chi ha battuto questi due in finale, che è Tiziana Stefanelli. Buongiorno Tiziana. Buongiorno a tutti, buongiorno Davide, anche ragazzi. Bene. Ciao, buongiorno Tiziana. Bene, buongiorno. Allora cominciamo da te Tiziana. Allora, dopo la vittoria tu hai scritto un libro, perché mi sembra che questo sia uno dei premi che concede, ma appunto che viene concesso al vincitore di MasterChef. Ma poi la tua vita è cambiata, fai ancora l'avvocato, non fai più l'avvocato? Guarda, sì, faccio l'avvocato perché quello è il mio lavoro, è l'unica cosa che so fare con professionalità. La cucina è un hobby, una passione, ma non mi sento uno chef e non volevo diventare chef partecipando a questo talent. Se avessi voluto fare lo chef probabilmente avrei seguito un corso di formazione professionale diverso. Questo è un gioco televisivo impegnativo, però ecco, che ha arricchito la mia vita per tanti versi perché mi ha dato tante opportunità, però non volevo cambiare vita e sostanzialmente non l'ho cambiata. Bene, rimani con noi perché chi voleva diventare chef forse è Maurizio Rosazza prima. Guarda, io non sono diventato chef ma sono diventato un cuoco con la Q, perché mi sono scoperto insieme al mio compare Marconetti un po' più portato per la parte intrattenimento. Esatto. E adesso abbiamo fatto una trasmissione, si chiama Colpo di Cucina, su un canale che è Fine Living e è aperto, Andrea dillo tu. Vabbè, voi avete aperto un'azienda, una società, una startup di nome Chi se ne fuga. Ma io non capisco, perché ho visto che c'è un altro, diciamo, che ha partecipato a MasterChef che ha fatto porno food, un altro ancora che ha fatto Chi Food, quindi ognuno di voi ha creato qualcosa. Ma tu Marconetti volevi diventare cuoco? Ebbene sì, io in realtà ero convinto di diventare chef, poi però il mio amico e socio Maurizio mi ha convinto e mi fa: guarda, tu in cucina non duri un secondo, dammi retta, magari se facciamo qualcosa insieme, ci mettiamo insieme, qualcosa riusciamo a combinare. Effettivamente aveva ragione. Tiziana, scusami, ma la tua vita è cambiata, magari i tuoi amici tutte le volte che tu li inviti o vieni invitata vorrebbero che tu andassi ai fornelli? Sì, sempre, guarda, e ogni volta dico: oddio, che stress invitarti, invece in realtà io sono sempre la stessa e non mi faccio problemi anche a invitare amici e fare una spaghettata. Non sempre sono disponibile, insomma, per questioni di tempo a fare poi questi grandi piatti quando invito amici. E comunque la mia vita è cambiata alla fine, volente o nolente, MasterChef te la cambia. Mi sono ritrovata a fare tante cose, a cucinare in tanti ristoranti, in alberghi, in circoli, mi sono trovata in giro per l'Italia, per l'Europa, ho fatto spot, ho fatto televisione, una trasmissione dove facevo il giudice questa volta anziché... Cioè, ma tu stai facendo una trasmissione come giudice, ma sei severa come Cracco? No. E Barbieri oppure? No, ma perché il format non lo richiede, perché Cuochi e Fiamme è una trasmissione molto tranquilla con dei concorrenti che non hanno grandi pretese se non amatoriali, quindi non c'è bisogno di essere severi, insomma. Ecco, una cosa che chiederò poi anche ai due battuti da te, ma hai imparato qualcosa in cucina nei mesi appunto che hai partecipato a MasterChef? ti ha lasciato qualcosa? Io ho imparato tantissimo durante Masterchef, tant'è vero che quando mi hanno chiesto il menù della finale non sapevo più cosa cucinare, perché i piatti che avevo pensato in partenza non andavano più bene, perché c'era stata un'evoluzione. Ma ti dirò di più, c'è stata un'evoluzione enorme da Masterchef ad oggi, cioè la mia cucina è totalmente un'altra, ed è questo il bello poi del... di tutte le forme artistiche, che cambiano con i tempi, cambiano con la persona che le mette in essere. Quindi la cucina cambia con me in continuazione, siccome sono una persona che si annoia di se stessa e vuole sempre cambiare, rinnovarsi, anche la cucina segue questo ritmo un po' frenetico, insomma, dei miei mutamenti. Bene Tiziana, ti ringrazio, grazie e ti auguro buon lavoro. Ma voglio chiedere a Andrea Marconetti se le sue... Ciao Tiziana. Le tue abilità in cucina sono cambiate? Allora, le mie abilità in cucina sì, devo dire che sono cambiate. Non tanto perché ho fatto il talent, perché sì, è vero, il talent magari qualcosina ti dà, eccetera, eccetera, però sono cambiato perché comunque, continuando a lavorare con il buon Maurizio, lui mi ha condizionato. Lui è un po' più suor germana, io sono un po' più innovativo e ci siamo trovati in mezzo, quindi esatto. Abbiamo tirato fuori la nostra idea di cucina, che è un po' una fusion rivisitata, cioè sai quelle parolone. Ma ecco, avete imparato più da Bruno Barbieri o da Carlo Cracco o da Bastianich? Allora, ognuno di loro ci ha insegnato qualcosa di diverso. Allora, Cracco insegna molto a dosare, Barbieri è praticamente un marziano arrivato dal pianeta Chef a farci capire che tutti noi siamo dei pirla in cucina, perché abbiamo visto cucinare una volta. Invece il buon Bastiani c'è a non buttare via il cibo se dovessimo aprire un ristorante. Esatto. Andrea? Ma io invece, se proprio devo essere sincero, ho imparato forse molto di più da Bruno, perché comunque qualche consiglietto me lo dava, qualche trucco, insomma. Qualche trucco sì, mentre invece per Cracco no. Devo ammetterlo, no. No, bene. E Bastianich cosa ha insegnato allora? Bastianich ci ha insegnato soprattutto a non buttare via il cibo, perché avendo la mente del business. Siete d'accordo tutti e due questo? Quindi un vero ristoratore, un vero patron del ristorante. Sì, perché ti chiede sempre quanto può costare il tuo cibo, il tuo piatto all'interno di un ristorante. Quindi il food cost avete imparato. Food cost, assolutamente, anche quando facciamo la spesa ora siamo attenti al food cost. E anche quando andiamo a sfilettare un salmone siamo molto attenti. Ah sì, beh, voi sfilettate i salmoni, siete capaci di sfilettare? Assolutamente. Ma questo l'avete imparato a Masterchef o per conto vostro? Sì, imparato, allora sapevamo far qualcosina prima, poi ci hanno dato una micro lezione di sfilettamento salmone all'interno di Masterchef, e adesso, cioè, quando vado a prendere pesce personalmente preferisco che non me lo sfiletti nessuno, perché voglio mettermi alla prova. Bene, abbiamo sentito appunto Maurizio Rosazza Prin e Andrea Marconetti, che continueranno a rimanere qui con noi, ma io passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi, continueremo a parlare di che fine hanno fatto i vincitori e i vinti di Masterchef. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo, cari radioascoltatori. Ebbene, continuiamo a scoprire che fine hanno fatto vincitori e vinti di Masterchef. Sono diventati chef professionisti, hanno aperto ristoranti, hanno scritto libri, appaiono in televisione. Insomma, andiamo a scoprire questo mondo. Cosa c'è dietro a questo mondo di Masterchef, questa trasmissione così di grandissimo successo, che molti di questi sono diventati veramente molto, ma molto popolari. Bene, andiamo ora a parlare con il primo vincitore di Masterchef, Spiros Theodoridis, che ora dirige un ristorante 1495 a Scandiano all'interno di un hotel. Buongiorno Spiros. Buongiorno. Spiros, ma ecco, tu dirigi o fai... tutto all'inizio, ecco. Tu dirigi o fai il cuoco in questo ristorante? Io faccio anche il cuoco e gestisco tutto il ristorante, dirigo tutto il ristorante, sala, cucina, tutto faccio. Quindi Masterchef ti ha insegnato a fare qualcosa di particolare? Allora, Masterchef ti insegna qualcosina all'inizio, ma dopo dipende dalla persona che cosa vuol fare, se vuole continuare, se vuole fermarsi, però ti dà, diciamo, la spinta, ti insegna qualcosina, ma bisogna dopo impegnarsi per poter veramente imparare delle cose. Non è una scuola MasterChef, è l'inizio per fare, diciamo, la gavetta dopo. Senti Spiro, ma tu prima cosa facevi? Io prima facevo l'impiegato. Quindi ha stravolto la tua vita MasterChef? Beh sì, l'ha cambiata totalmente. Nel bene, nel bene, però la cambia, sì. Ecco, ma prima... Se uno ha la voglia di cambiare la vita, se non ha la voglia è una bellissima esperienza... che vivi benissimo, impari delle cose, ma non ti fa diventare chef assolutamente. Ecco, ma prima tu cucinavi, immagino di sì, avevi la passione della cucina? Certo, sempre, sì, ma penso che chiunque vada a fare un programma del genere, la sua passione è la cucina, vuole per qualche motivo, non è il suo mestiere... Non è capitato nella vita, ma insomma parte dalla passione che uno ha per la cucina. Ecco, rimani con noi Spiros, perché ora andiamo in Toscana, andiamo da un altro partecipante, la partecipante alla seconda edizione, andiamo da Diana Cecconi. Buongiorno Diana. Buongiorno signor Paolini, buongiorno a tutti. Mi viene in mente la canzone Oh Diana, era una famosa canzone, mi sembra di Polanca, credo. Infatti sono figlia di Polanca, diciamo. Ah, ecco, benissimo. Il tuo ristorante si chiama Divino Mangiare. Divino Mangiare, sì. E dove? È in Toscana, è praticamente in Maremma, a Scarlino. E si trova all'interno di un contesto di un'azienda vinicola, quindi fra le vigne, fra gli ulivi, cioè è una cosa molto particolare perché è un contesto molto piccolo, tipo una casetta dove io personalmente cucino. Mi occupo dalla spesa della mattina alla cucina, alla sala, tutto come fa Spiros, via. Sì, ma hai imparato tutto MasterChef? Ah no, il mio amore per la cucina inizia da quando ero piccolina. Sono stata cresciuta da delle nonne in queste cucine, in queste famiglie matriarcali dove c'erano queste grandi cucine, si ritrovavano tutte nonne, zie, tutte queste massaie a cucinare, quindi sono cresciuta tra i profumi, tra i sapori della mia terra, della Toscana, via. Spiros, poi ritorniamo da te. Spiros, mi dai qualche tuo piatto del tuo ristorante? Un piatto così che mi viene in mente adesso che va anche di più è la spuma di patate al limone con il polipo cotto a bassa temperatura sotto vuoto, con i pomodorini confiti e l'aneto essiccato. Un altro che va moltissimo sono gli spaghetti al nero di sepia con i ricci di mare con una crema di cavolfiore in agrodolce. Chiediamo a Diana qualche piatto del suo ristorante, del Divino Mangiare. Allora, da me va molto il cinghiale alle mele, il daino alla cacciatora, che è un daino che io faccio che accompagno con delle olive saggiasche per smorzare il dolciastro del daino. E poi ci sono pisci, guanciale e pecorino, poi c'è la pappa al pomodoro, la panzanella d'estate, i fisci all'aglione. Senti Diana, ma mi sembra che questi non siano piatti da MasterChef, non le hai imparate a MasterChef questi? No, cucina vera questa, Diana, da tuo Maurizio. Ecco, qui abbiamo... Ciao. La miglior concorrente di sempre, perché hai piatti che mangeresti sempre. Poi io sono portato a cucinare in maniera diversa, ma Diana ne mangeresti sempre i suoi piatti, quelli veri. Diana, ma quindi ecco, cosa ti ha dato in cucina MasterChef? Mi ha dato la consapevolezza, una conferma che io amavo la cucina, l'ho sempre amata, ma quello mi ha dato la conferma. E alla ricerca dei sapori e dei profumi che ho conosciuto sempre fin da piccola. cioè, mi è capitato questa cosa e finalmente ho potuto realizzare il mio sogno, perché il mio sogno era di poter cucinare la mia cucina, quella che faccio con amore, che cucinavo per la mia famiglia, di poterlo fare anche per le persone che mi vengono a trovare. Senti, ma ti viene a trovare qualcuno perché sa che sei stata MasterChef? Qualcuno mi viene a trovare, però io sono in un posto dove ci sono tanti turisti stranieri, tanti stranieri, sì, molti, e anche molti che vengono in vacanza. E quello che mi ha sorpreso molto quest'estate, sono venuti e tanti non lo sapevano, e ho avuto la conferma ancora di più che la mia cucina è una cucina vera. Una cucina che, cioè, non riuscirò mai a fare un piatto, a presentare un piatto di alta cucina come fanno tutti i miei colleghi. Io sarò sempre per la cucina che dico che si mangia, via. Ma sentiamo Andrea Marconetti, ma tu fai piatti d'alta cucina? No, allora, io sono un po' come la mia Diana. Ciao Diana, è un piacere sentirti. Ciao Andrea, anch'io qui stiamo facendo il club. Esatto, anch'io sono cresciuto... Club sandwich. Allora, perché in realtà anch'io sono venuto su con la cucina della nonna, però non in mezzo agli ulivi, ai campi, eccetera, eccetera, ma in un monolocale di Pescara Borromeo. Quindi è un po' meno poetica la cosa, però anch'io ho quella formazione, quindi sono per i piatti alla Diana, via. Spiros, ma la gente, sì, dopo che tu avevi vinto e hai aperto questo ristorante, sì, molti sono venuti perché sapevano che eri stato il primo vincitore di MasterChef? Certo, certo, sì, sì, non posso dire che non è vero, sì. Tuttora continuano a venire perché... ho vinto MasterChef, perché mi vogliono incontrare, perché vogliono fare due chiacchiere con me. Non nascondo che aiuta, questa è la verità. Poi volevo dire un'altra cosa sulla cucina, che la cucina è un fatto personale, nel senso che MasterChef uno partecipa e presenta i suoi piatti, dove questi dopo hanno una cresta. Io ho aperto un ristorante dopo 3 anni e siamo tantissimi. Io gestisco 18 persone, siamo 9 in cucina, altrettanto in sala, ho fatto una scuola di cucina sopra, quindi ho fatto una ricerca, diciamo, in 3 anni, anche studi, dove io che sono andato a lavorare nei ristoranti, a fare degli staff nei ristoranti importanti in Italia, che tutto questo, questi ristoranti mi hanno aperto le loro porte grazie a MasterChef, quindi non lo dimenticherò mai che MasterChef ti aiuta in quel senso là, e sì, ti aiuta a crescere, nel senso a capire la cucina e svilupparla. Senti, io voglio dire, Diana, ho anch'io la papa al pomodoro nel menù, ecco, però è un pomodoro perché la cucina alla fine è la materia, è la ricerca della materia prima. Io ho messo la papa al pomodoro perché abbiamo a Reggio Emilia un'azienda biodinamica molto buona, dove abbiamo un pomodoro favoloso, perché tutti, non lo so, hanno in testa che il pomodoro lo possiamo trovare buono solo a sud, eccetera. Io ho scoperto questa azienda favolosa e mi è venuta in mente la papa al pomodoro. Guarda che la passata di pomodoro è nata in provincia di Parma, non è nata in Campania, quindi sì. il signor Cirio era piemontese. Bene, chiusa questa battuta, sicuramente oggi i pomodori migliori arrivano dalla Campania, però ci sono tante altre realtà. Ma io voglio chiedere a Maurizio Rosazza, invece lui è specialista invece ci sentiamo dopo con Maurizio Rosazza. Volevo fargli una domanda sul salmone. Linea alla regia, torneremo fra poco. Grazie Spiros, grazie Diana e tanti auguri di buon lavoro. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Continuiamo questa carrellata di personaggi che hanno partecipato a MasterChef per scoprire un po' se sono diventati appunto chef e se invece hanno scelto altre professioni, ma mi risulta che parecchi abbiano aperto dei ristoranti. Ad esempio oggi non è con noi una Anna Lupi, che ha aperto un ristorante bio-vegetariano, La Fatta Turchina, in quel di Verona. Poi abbiamo anche Alberico Nunziata, che è l'ex sergente dell'aeronautica che lavora come executive chef a Los Angeles, quindi diciamo che grande movimento. Poi ne potrei citare molti altri, ma io volevo tornare a Maurizio Rosazza Prin, che è qui in studio con noi, finalista della seconda edizione. So che tu ti sei specializzato in piatti a base di salmone. Assolutamente sì, anzi ti dico una cosa, il mio sogno vero era farmi dire bravo da Il Gastronauta. Ci sono riuscito ieri sera con una mystery box al salmone. Tu hai sempre voglia di scherzare. No, va bene. No, assolutamente. Bene, bene. Comunque ti dillo, sei specializzato dillo, sul dillo salmone. Sono bravo sul salmone. Dillo, ammettilo agli italiani. Andiamo avanti. Non lo farà mai. E ora parleremo con il vincitore della terza edizione di MasterChef, con Federico Francesco Ferrero. Buongiorno, ciao Ferrero. Ciao, buongiorno al Gastronauta e a tutti gli ascoltatori, ciao Maurizio. Buongiorno. Tu sei diventato collega, perché ormai scrivi per la stampa di Torino, hai una tua rubrica, quindi è una delle tante cose che fai oggi. Oltre a questo cosa fai? Sei tornato a fare il medico oppure il cibo ti ha preso? Ma il cibo è sempre stato al centro della mia vita e grazie all'esperienza di MasterChef l'ho diventato ancora di più, perché io mi occupo di dietologia e nutrizione, quindi continuo a fare il mio lavoro in studio e sono felice di continuare a farlo. Ma il cibo ha cambiato completamente la mia vita, perché mi ha dato l'opportunità di comunicare con la gente questo argomento attraverso le colonne della stampa, attraverso tutta una serie di conferenze e di incontri che faccio settimanalmente in tutta Italia. Ecco Federico, ma dei tre giudici chi è il più attento alla salute? Quindi diciamo non a piatti salutistici, ma più attento a calibrare appunto proteine, carboidrati o d'altro. C'è uno dei tre che secondo te segue questa, diciamo, questa linea? Ma guarda, la salute non passa attraverso il calcolo delle quantità nutrizionali, ma piuttosto dal togliere tutto ciò che è inutile, soprattutto togliere i grassi, le cotture e gli zuccheri inutili. Penso che Carlo Cracco abbia questa sensibilità, che gli è stata peraltro trasmessa dal grande Marchesi, che 30 anni fa faceva già dei libri dove prendeva la cucina regionale italiana e la alleggeriva. Guarda, ti posso dire comunque che avendo mangiato molte volte con Gualtiero Marchesi, forse nei libri scrive quello, ma a tavola Gualtiero sicuramente non ha limiti. Ma sentiamo Enrica Della Martira, anche lei è stata battuta, mi sembra, da Francesco Ferrero, vero Enrica? Esatto, buongiorno Davide, ciao Mauri. Ciao Enrica. Ciao Enrica. Ma Enrica, tu cosa stai facendo ora? Allora, io adesso insegno in una scuola di cucina qui a Firenze, molto bella, che si chiama Desinare. Ah, sì, certo. E mi dà una gran soddisfazione, veramente sono felicissima. Ho il mio corso serale una volta alla settimana e ho la possibilità, tra l'altro, di cucinare una cucina stupenda che non avrò mai a casa, perché è enorme, meravigliosa. Continuo comunque a fare il mio lavoro, poi ho un blog che adesso per il lavoro ho dovuto un pochino abbandonare, ma ora riprenderò. Ecco, senti, ma il tuo sogno era di insegnare o di avere un tuo ristorante e quindi avere una tua cucina? No, io posso dire di averlo realizzato il mio sogno, perché insegnare è una cosa che mi piace tantissimo. Le amiche in tempi non sospetti mi dicevano sempre che io gli spiegavo perfettamente come fare dei piatti e quindi poi forse questa è una naturale conseguenza. Non avrei aperto un ristorante mio, perché secondo me per fare il ristoratore bisogna conoscere bene il mestiere, non ci si può inventare. Ecco, Enrica, tu prima di MasterChef avevi una tua attività? Sì, ho un mio showroom di abbigliamento qui in Toscana insieme a mia madre, continuo in realtà a fare entrambe le cose, infatti ultimamente dormo poco. Quindi moda e cibo, beh, sei trendy, sì, al massimo su questo. Esatto. Volevo chiedere a Marconetti, ma tu prima cosa facevi nella vita? Io facevo il programmatore, facevo dei software per le banche, per le brand e poi ho fatto il talent e ho dovuto abbandonare questo mondo che mi andava molto stretto. e mi sono imbarcato in questa avventura con tu Maurizio. Cosa facevi? Io facevo il copywriter in un'agenzia pubblicitaria e dipingevo, quindi ho spostato l'asset creativo sulla cucina. Ecco, io non ho ben capito cosa fate ora voi due con chi se ne ma non l'abbiamo capito nemmeno noi, Davide. Dacci tempo, per favore. Ecco, ma cos'è chi se ne fu? Chi se ne fu innanzitutto un movimento di pensiero, perché ricordate che in cucina non bisogna mai aver paura di sbagliare, altrimenti chi se ne fu? Questo prima bene. La filosofia poi. Bene, Federico Ferrero, cos'è cambiato, diciamo, nel tuo approccio alla cucina dopo MasterChef? È cambiato qualcosa, oppure le tue idee, il tuo modo di porti verso la cucina è rimasto lo stesso? Ma ho cercato di portare avanti un'idea, di vincere con quello, ho avuto l'opportunità di farla conoscere all'Italia. Senz'altro, quando tu incontri persone hai molto da imparare, e per cui ho capito che per far passare certi concetti e certi gusti bisogna comunque andare verso le credenze della gente. Una di queste è che la soddisfazione sia nella quantità e non nella qualità del cibo, ma le cose si fanno. Ma io credo che questa credenza sia un po' passata. Insomma, non siamo ai tempi della preistoria. Oggi la gente sa benissimo che la quantità non è sinonimo di qualità, quindi insomma su questo credo che, insomma, ammettiamo che c'è stato questo passo in avanti. Enrica, le persone che vengono a scuola da te pensano ancora che la buffata sia la cosa che dà più soddisfazione? No, devo dire in realtà no, sono tutti molto curiosi di imparare nuove tecniche di cottura, di abbinare sapori particolari, non hanno, poi certo quando sono a casa loro probabilmente si fanno anche delle gran piattate di pasta, però il motivo principale per cui vengono a fare una lezione di cucina è per imparare non solo, diciamo, le tecniche classiche, ma anche a fare qualcosa di un pochino più particolare e non necessariamente così abbondante. Ecco, ma prima Enrica, poi a Ferrero, voglio chiedere questo: dei tre giudici, appunto, c'è qualcuno dei tre, Enrica, che ti ha insegnato qualcosa di particolare, cioè dal quale ha preso, non dico dei trucchi, ma diciamo un qualcosa che ti mancava nella tua tecnica di cucina? Sicuramente i passaggi dello chef Barbieri nelle postazioni erano sempre estremamente utili, perché lui ha veramente una passione infinita per il cibo e ci tiene tantissimo, infatti arriva a arrabbiarsi veramente tanto se uno non fa le cose fatte bene, e quindi qualche trucco me l'ha dato. Anche Cracco, devo dire la verità. Più in maniera un po' diversa. Barbieri era proprio uno che ci teneva e che è stato sempre dei consigli, gridandomi la maggior parte delle volte, però insomma io prendevo e portavo a casa. E volevo chiedere a Ferrero se i tre, dopo che avevano dato il giudizio, diciamo finita la trasmissione, continuavano questo atteggiamento rigoroso, diciamo burbero, oppure erano molto disponibili a discutere? Ma non c'era nessun contatto con i giudici fuori da quello che si è visto in trasmissione. Ho poi avuto l'opportunità di incontrarli dopo e sono tutti e tre ugualmente carini, simpatici e prodighi anche di consigli. Ecco, anche voi due che poi, diciamo, una volta finita l'avventura MasterChef avrete rincontrato i giudici? Assolutamente, abbiamo rincontrato in occasione i giudici e soprattutto una volta abbiamo ricevuto anche un consiglio dal buon Cracco, che ci diceva: ragazzi, aprite un posto perché la gente vi vede e vuole venire a mangiare. Esatto. Noi non l'abbiamo ascoltato, ma forse lo ascolteremo. Quindi mi sembra che pochi l'abbiano ascoltato, perché vedo che... Ma pochi, cioè, ma buoni, Davide, dai. Nessuno ha aperto un posto proprio suo. Escluso Diana Cecconi, mi sembra che abbia aperto un ristorante tutto suo dove cucina. Gli altri o lavorano in un albergo o d'altro, quindi ora ne sentiremo altri. Però non c'è qualcuno che non avesse avuto un ristorante precedentemente, poi lo ha aperto facendo lo chef o facendo il cuoco. Ma questo secondo me fa parte del gioco, perché non credo che MasterChef l'obiettivo sia quello di insegnare a cucinare. Assolutamente, ma ti dico anche una cosa, Davide, non io quando sono entrato a MasterChef non pensavo al poi, pensavo alla competizione, che era quella che mi interessava, e consiglio alle persone che andranno a fare MasterChef 5 di dedicarsi al cibo, non a quello che verrà dopo, ma di godersi il gioco, che è bello e interessante. Esatto, io invece ho fatto completamente il contrario di quello che ha fatto Maurizio. Io non pensavo alla competizione, ma continuavo a pensare al poi. Quindi, in un modo o nell'altro comunque ci hanno fregati. Bene, volevo chiedere a Enrica Della Martira se continuerà a insegnare oppure si dedicherà alla moda. No, assolutamente continuerò a insegnare, perché quando arrivo la sera stranchissima e penso, oddio, come faccio adesso a stare tutta la sera a parlare in piedi, lezione, a finire tardi, perché poi si lava tutto fino all'1:30 e la cucina è perfetta, non si va a letto. Sono sempre insomma un po' preoccupata, poi quando sono lì invece passa completamente la stanchezza, mi diverto tantissimo, quindi sicuramente continuerò a insegnare. Bene, grazie a Federico Ferrero, grazie a Enrica Della Martira, rimanete con noi, torneremo fra poco. Il Gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a continuare un po' a scoprire sui concorrenti, cosa fanno i concorrenti di MasterChef. Prima ho toppato, ho detto Fata Turchina, il ristorante della ex ballerina Anna Lupi, che aveva partecipato, mi sembra, la terza edizione, no? E si chiama Fata Zucchina, ristorante bio vegetariano a Verona. Poi il pugile, ex pugile Paolo Vidoz, ha aperto a Gorizia un agriturismo. Danny Dannibale invece è una personal chef, mentre Imma Gargiulo presenta su Alice le sue conserve di casa. Ma continuiamo, e ora siamo arrivati al vincitore dell'ultima edizione. Buongiorno a Stefano Callegaro. Buongiorno a lei, signor Paolini, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senti Stefano, tu cosa fai ora dopo aver vinto MasterChef? Come diciamo, stai sfruttando la tua vittoria? Ma io con MasterChef ho voluto veramente provare di cambiare la mia vita e quindi cominciare a vivere di cucina, cosa che da sempre è una passione che porto dentro, ma che mai non era ancora capitato. E quindi in questo momento sto collaborando con un ristorante del mio territorio di Rovigo, che ha sposato un po' anche la mia filosofia, insomma, quello che mi piacerebbe provare di comunicare con la cucina che faccio, e quindi adesso per il momento organizziamo giornate in maniera abbastanza continuativa, di solito nei fine settimana, e le persone che mi hanno visto in trasmissione vengono a trovarmi per assaggiare i piatti che hanno visto in onda e anche quelli che insomma fanno parte del mio bagaglio. Ah, tu rifai nel tuo ristorante i piatti che hai fatto a MasterChef, quindi? Sì, anche. Non solo, ma anche quello. Interessante, perché questa cosa ho sentito, non la fa nessuno, ma mi raccomando, promuovi i prodotti della tua terra, il Polesine, perché sono straordinari. Devo dire, io durante un viaggio appunto a scoprire i prodotti del Polesine anni fa sono rimasto veramente molto ben impressionato, perché molti di questi e la cucina del Polesine non è molto conosciuta, ma dovrebbe essere conosciuta. Sono perfettamente d'accordo con lei. Io sono fortissimamente radicato alla mia terra, trovo che questa terra sia una terra fatta di cose genuine, vere, schiette, come le persone tra l'altro che la abitano, e ho portato la mia terra in tutto il percorso di MasterChef. In finale il menù era quasi un manifesto, insomma, al mio territorio, e io sono molto orgoglioso e mi sento un privilegiato a poter dare un po' di voce. Grazie. Anche a questa bellissima terra, insomma. Fai bene, ma rimani con noi, perché ora andiamo dal personaggio che ha l'hotel più strano di quelli che si sono presentati a MasterChef. Buongiorno ad Almo Bibolotti. Buongiorno Almo. Buongiorno, allora, signor Paolini, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Senti, vuoi raccontare ai nostri radioascoltatori che albergo dirigi tu? Sì, è stato stata una grande scommessa, perché all'inizio in pochi credevano nell'idea mia e di mia moglie. Noi gestiamo un dog hotel, un albergo esclusivo per cani a Bari, nel cuore della città di Bari. Un albergo che ci consente comunque di mantenere oltre 50 cani che noi abbiamo adottato, ed è una bellissima realtà imprenditoriale, forse unica in Italia al giorno d'oggi. Sai, verrebbe così spontanea una battuta molto sciocca, che è quella: ma ha imparato a MasterChef a far da mangiare per i cani? Io già cucinavo per i cani, e visto che le mie prelibatezze erano apprezzate dai cani, ho pensato anche di sottoporle al giudizio dei giudici, e con grande soddisfazione sono piaciute. Comunque, scherzi a parte, io ho scritto anche un libro meraviglioso per cani, e questo proprio perché è stato un doveroso tributo agli amici a quattro zampe, che mi hanno veramente trasmesso tanto nel corso di questi anni, e ho voluto affrontare delle tematiche anche abbastanza importanti in questo libro, quindi un libro simpatico, spiritoso, ma che affronta anche il problema della nutrizione dei cani. Infatti ci sono in questo libro delle ricette ipoallergeniche, delle ricette vegetariane e vegane, anche nel rispetto di quelle che sono un po' le diete etiche dei proprietari, questione chiaramente condivisibile o meno, e le classiche ricette a base di carne e di pesce. Senti, ma quindi la tua vita non è cambiata dopo MasterChef? È cambiata nel senso che viaggio veramente tanto, non soltanto in Italia, ma varco i confini nazionali molto spesso, soprattutto ecco, in Gran Bretagna vengo chiamato per delle cene molto esclusive, delle cene private, e ho fatto anche tantissimi eventi al di fuori dei confini europei. Sono stato a New York al Fancy Food, ho organizzato un evento molto importante per oltre 300 persone, ai quali hanno partecipato anche numerosi giornalisti e food blogger. Sono stato adesso a Francoforte, prossimamente partirò in Sri Lanka per portare la mia cucina, la genuinità della cucina italiana in Sri Lanka. Quindi sei cambiata. Callegaro, lei cosa faceva prima di MasterChef? Mi occupavo di immobili, avevo delle agenzie immobiliari e quindi mi occupavo di immobiliare, per l'appunto, ma ora finalmente riesco a vivere facendo cucina, ecco, anzi in questo momento insomma vivo una situazione estremamente impegnata. Sto seguendo la promozione del libro che spetta al vincitore di MasterChef, che uscirà il 2 di aprile, un libro tra l'altro che racconta tutto il mio percorso e tutto il mio amore per la cucina e anche la mia terra, che è parte integrante di tutte le ricette che sono state, insomma, che il libro contiene, ecco. Senta, ma lei parla appunto di cucina del territorio, ma a MasterChef di cucina del territorio se ne fa poco, vuol dire che insomma lei aveva già una preparazione, e cosa le ha insegnato allora diciamo il periodo di MasterChef in cucina? Beh, MasterChef ti insegna in qualche modo ad avere, acquisce molto la creatività, perché il tempo per decidere che piatto deve essere confezionato è veramente molto stretto, molto, molto breve, e quindi l'eccellenza delle materie prime che questa trasmissione ci mette a disposizione ci dà la possibilità di creare piatti di buona qualità. Va detto che la mia passione ovviamente nasce in questo territorio. Io sono veramente, come posso dire, un appassionato seriale, se mi passa questo termine, della cucina. Passo le mie domeniche in casa a provare i piatti, ogni volta che posso invito gente a pranzo, a cena, per poter avere dei momenti conviviali con loro e cucinare. A MasterChef si sente la sua passione, Stefano, si sente da come la racconta, probabilmente da come l'ha vissuta. Ma io voglio chiedere a Dalmo se si è portato qualche ricetta da MasterChef per i suoi cani. No, le ricette di MasterChef sono rimaste sono fruibili per tutti quanti coloro che mi hanno seguito. Ecco, no, tante delle ricette di Masterchef, come Eco Stefano, le porto nei ristoranti, propongo un menù degustazione, proprio perché io sono, ecco, il portavoce un po' della cucina regionale pugliese. Infatti il mio cavallo di battaglia e il piatto con il quale sono entrato anche nella cucina di Masterchef è stato proprio il budino di cipolla, della cipolla di Acquaviva, e questo piatto è un piatto, ecco, che nella sua semplicità ha tantissimo successo. Bene, è bellissimo, perché da un lato abbiamo un globetrotter della cucina e dall'altro invece abbiamo uno radicato molto ma molto nel territorio. Bene, voglio chiedere grazie ad Almo e grazie a Stefano Callegaro, vi auguro ancora di continuare appunto con la passione per la cucina, ma voglio chiedere a Maurizio e Andrea, che sono qui con me, se è il futuro, vedono il futuro della cucina appunto, o vedono qualcosa di diverso, perché mi risulta che voi facciate un programma televisivo. Sì, un programma che si chiama Colpo di Cucina. Per il momento andiamo avanti così, cerchiamo di raccogliere i soldi per poi aprire un bellissimo ristorante, e quando Andrea finalmente sarà vecchio lo metterò in cucina a cucinare. No, ma il futuro è la cucina. Ma chissà, sì. Chissà. Ma io forse vedo qualcosa arriverà. Bene, se devo tirare un po' le conclusioni, ma insomma, devo dire che in fondo a tutti è rimasto qualcosa appunto della cucina, cioè non tutti hanno abbandonato, quindi non è stato semplicemente un momento come si pensa di gara, si va oltre la gara, perché mi pare di aver capito che molti volevano cambiare vita e hanno visto in Masterchef un qualcosa per cambiare vita. Io sono convintissimo che Masterchef sia uno spettacolo e non sia una scuola di cucina, e per tale deve essere preso, perché altrimenti, se fosse semplicemente una scuola di cucina, sicuramente avrebbe bisogno anche di tantissime altre cose, a cominciare dalla conoscenza della spesa, quindi di cominciare dal mattino e di conoscere una cultura del cibo un po' più profonda. Ma non mi sembra che però tra le prerogative e le finalità di Masterchef ci sia questo. È uno spettacolo e come tale rimane, ma ha dato modo a moltissime persone di cambiare vita. Poi vabbè, tutto è contestabile, sono contestabili alcuni risultati di gare finali tra due o più concorrenti, ma è successo, mi sembra, in tutte le edizioni, certo, che c'è rimasto qualche deluso. Qui davanti a me ho due delusi e quindi diciamo che la delusione mi sembra che sia stata scacciata. Assolutamente, assolutamente. Sì, Masterchef ti dà la gioia di continuare bene a cucinare. E allora io saluto, ringrazio tutti i partecipanti, vi do appuntamento domenica prossima. Una buona domenica dal vostro gastronauta. Il gastronauta.